Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Un nuovo approccio terapeutico è stato sperimentato per la prima volta con successo alla Città della Salute di Torino. Si tratta di una strategia terapeutica che permette di rimandare il trapianto di fegato nei bambini affetti da una rara malattia genetica. A Obiettivo Salute il commento del dottor Marco Spada, direttore della divisione di pediatria dell'ospedale Regina Margherita di Torino e del centro regionale per la cura delle malattie metaboliche. Questa nuova procedura terapeutica consiste nella iniezione diretta dentro il fegato di neonati o di bambini piccoli di cellule staminali sane che vengono da donatori, che permettono di sostituire direttamente dentro il fegato la proteina mancante. Quindi è una sorta di mini trapianto senza tutte le implicazioni gravi del trapianto di fegato, che permette di stabilizzare i pazienti e portarli in condizioni ottimali al trapianto, non più a 6 mesi o 8 mesi, ma anche all'anno o all'anno e mezzo. E naturalmente questa nuova procedura apre alla terapia di molte malattie metaboliche su base epatica, che sono circa dalle 2 alle 300. Sigarette elettroniche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica sul sito un documento che fa luce sui danni delle sigarette elettroniche sulla salute, in modo particolare su quella degli adolescenti. A Obiettivo Salute il commento della dottoressa Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. Chiaramente l'OMS ribadisce due concetti importantissimi. Non abbiamo dati sufficienti per poter stabilire se le sigarette elettroniche sono efficaci nella cessazione. E abbiamo invece ora dati sufficienti per dire che effetti nocivi sulla salute sono verificati, sono dimostrati a breve termine nell'uso acuto. Mancano ovviamente dati sull'effetto sulla salute a lungo termine, cioè nei consumatori che la usano per molto tempo e molti anni. L'altro problema che mettono in evidenza è il problema della dipendenza da nicotina, particolarmente grave nei giovani e giovanissimi, che trovano in questo strumento un appeal particolare e che determina una dipendenza che è poi difficile, molto difficile, complesso da vincere. Bene, per oggi è tutto. Tra poco vi aspetto in diretta Facebook insieme a me il coach dell'ordine Luca Guidara, che ci aiuterà con i suoi consigli a prenderci cura della nostra casa, che in fondo è un modo per prenderci cura di noi stessi. Non mancate, vi aspetto, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con me. Un saluto da Nicoletta.